Siamo in collegamento telefonico con Ivan Talarico che porterà in scena Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro il 21 gennaio prossimo al Teatro Vascello. Ivan, intanto ben ritrovato. Grazie Federico, buongiorno. Allora, è una data secca, tanto spieghiamo questo titolo e questo spettacolo, di cosa si tratta? Allora, innanzitutto sarà prevalentemente un concerto, nel senso che ci sono brevi incursioni di parlati e di poesie, ma è soprattutto un concerto. E il titolo deriva da una delle canzoni onomatopeiche che farò durante la serata e ovviamente non posso spiegare per filo e per segno cosa vuol dire, ma parla di bipolarismo e quindi già vuol dire qualcosa che questo occhio destro abbia un aspetto sinistro. Senti, è all'interno di Filetti di Sgombro 2018, prima edizione. Racconti un po' a chi ci ascolta di cosa si tratta. Sì, è un esperimento molto bello che abbiamo voluto fare noi di Sgombro con 369 gradi e il nuovo Cinema Palazzo. Abbiamo preso tre delle situazioni artistiche che si esibiscono a Sgombro, che è il varietà che facciamo appunto al nuovo Cinema Palazzo una volta al mese. Tre di queste realtà, cioè io, Daniele Parisi e Claudio Morici, e abbiamo provato a trasportarle al Teatro Vascello. Ok, senti, per chi ci ascolta sempre facciamo anche un piccolo excursus su quello che è il tuo percorso artistico. Sì, nel senso che non c'è poco e non c'è tanto da dire, nel senso che io ho cominciato da piccolo scrivendo canzoni e facendo poesie, poi ho avuto una lunga parentesi teatrale ancora attiva con Doppio Senso Unico, con cui abbiamo realizzato finora cinque spettacoli insieme a Luca Ruocco, lavorando in un po' di teatri a Roma in Italia, e poi ho iniziato a fare il cantautore e ho vinto nel 2015 il premio per il miglior testo a Musicultura, nel 2016 sono stato ospite al Tenco e nel 2018 arrivo al Teatro Vascello. Senti Ivan, qualche riferimento tuo artistico rispetto al cantautorato? Questa è sempre una domanda difficile, nel senso che non ascolto tantissimo. Tra i classici ho ascoltato sempre volentieri Battisti, Dalla, Daniele, De André, ma anche tra i contemporanei c'è molta roba interessante di coetanei che per certi versi insegnano anche molto e persone un po' più grandi, che ne so, penso a Filippo Gatti, a Paolo Zanardi, insomma, un bel po' di Giovanni Truppi, Lucio Leoni, insomma, un sacco di persone che poi ogni volta che lo dico capisco che parlo solo di colleghi e amici cantautori che conosco, quindi Sì. è anche un giudizio molto parziale, però a me piacciono molto. Senti, il gioco con le parole e l'onomatopeica da dove vengono? Ovviamente vengono per buona parte dal teatro, per buona parte dagli spettacoli che abbiamo fatto con Claudio Morici. Qualche anno fa ci muovevamo per locali a Roma facendo reading e siccome lui già leggeva e diceva troppe parole, abbiamo trovato insieme una formula per fare delle canzoni che non appesantissero il parlato e quindi canzoni senza testo, che sono appunto le onomatopeiche. Si inseriscono in una tradizione abbastanza lunga che dal Gramelò va a Lucio Dalla, che in quest'ambito tra lo sketch e l'onomatopeica ha fatto cose incredibili. Senti, nelle serate di Sgombro ti sei assunto il ruolo anche di presentatore. E come viene fuori questa attitudine? Ma diciamo che nelle serate che ho fatto prima ho iniziato un po' a farmi da presentatore, da introdurre le cose che facevo e quando è venuta fuori l'idea di Sgombro, parlando con gli altri, ho tirato fuori l'idea di provare a farlo con una platea ampia, presentando anche altre persone. Loro l'hanno accolta da subito benissimo e quindi l'abbiamo portata avanti. Ed è una cosa che mi diverte molto perché cerco di farlo in maniera molto attiva, con un poco canovaccio e cercando di creare molto durante le serate, stando sempre defilato e lasciando spazio ai contenuti. Allora, restando a Sgombro, ti chiedo come è nata la formula e si sta sviluppando nel tempo. La formula di Sgombro è nata molto semplicemente tra noi amici, appunto io, Claudio Morici, Daniele Parisi, Marco Andreoli e Davide Grillo, lì a San Lorenzo, alla famosissima Tana Sarda, perché ci ritrovavamo lì per pranzare e pensavamo che fosse il caso di riprendere l'idea del varietà, di fare qualcosa tutti insieme, di collegiale che ci potesse divertire. Ma nessuno riusciva mai a fare il primo passo perché tutti eravamo presi dalle nostre cose. Un giorno Daniele Parisi è andato a parlare con il Cinema Palazzo, con cui già avevamo molti contatti, e da lì il passo è stato breve. Siamo partiti con questa formula molto semplice di presentatore e interventi, spesso comici, ma non obbligatoriamente, che durano dall'ora e mezza, la serata dura da un'ora e mezza alle 2 ore, e per fortuna siamo stati inondati subito dal pubblico e stiamo registrando molte presenze e la cosa sta crescendo molto. Oh, Ivan, questo rapporto artistico preferenziale con Morici e Parisi? Beh, si è costruito da sé nel tempo, nel senso che ci siamo con Claudio, ho iniziato proprio a fare il cantautore tirando fuori le mie canzoni. Con Daniele l'ho conosciuto un po' dopo e ci siamo subito riconosciuti vicini per molte cose, quindi abbiamo iniziato prima con Claudio a fare i reading e poi anche con Daniele a fare reading, ci siamo cimentati insieme nel laboratorio. Diciamo che la cosa importante è che parliamo la stessa lingua e ci capiamo, quindi tutto ci risulta più facile. Insieme stiamo crescendo bene. Sì. Allora, ricordiamo l'appuntamento al Teatro Vascello, 21 gennaio alle ore 21. Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro con Ivan Talarico. Ivan, nel salutarci ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sulla tua attività? Allora, su Facebook potete trovare la mia pagina che è Ivan Talarico, semplice, scritto in minuscolo, e poi c'è il mio sito che è www.ivantalarico.it. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Un abbraccio Federico, a domenica, grazie. Ciao. Ciao.